per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. E buongiorno e ben ritrovati, 103.1 Radio Città Fujiko, in forma, con la forma dell'acqua di venerdì 22, in partenza alle 10:31 minuti, puntuali, ok. Quasi. Prende forma lo Special Twice, la vostra coppia di lunghi, per un pre-weekend natalizio. Oggi sarà il Christmas Groove a farla da padrone, insieme a William Piane, dall'altra parte del vetro. Elisa Iacobucci! Yeah! Buongiorno, ben sintonizzati sui 103.1 in questa giornata, ahimè, stranamente senza sole. E dire che ci sei, eh? Vabbè, ma sai, come si dice, ormai l'inverno è inoltrato, ci stiamo avvicinando al Natale e quindi, anzi che non ci siano le metrate di neve che qualche anno fa fecero davvero fatica a far scendere le persone in treno tutto bloccato, invece quest'anno direi che è andata molto molto bene. E insomma, noi siamo carichi, come si può sentire dalle nostre voci. Oggi, insomma, tante curiosità, vogliamo affrontare il Natale con il nostro stile sempre molto groove, sì. E con tante però curiosità che, insomma, andremo a scoprire piano piano. E scopriremo assieme, perché dovete collaborare e farci tanti regali di Natale via SMS o connettendovi con la nostra pagina Facebook Special Twice. Come collaboriamo e come chiacchieriamo? Beh, assolutamente in maniera piacevole. Ad esempio, il Natale. Io mi sento più buono, nonostante il mio famoso cinismo e allontanamento da tutte le feste comandate. Quest'anno non si sa per quale motivo, ma incredibilmente non sono poi così distante dalle festività. Bah, chissà cos'è cambiato. Ma secondo me ti è un po' contagiato. Sì, infatti secondo me questa puntata possiamo fare che tu diventi inizialmente, cioè sei Scrooge, no? Io faccio i fantasmini, no, del passato, del presente e del futuro, e quindi sapete già come andrà a finire la puntata, certo. Che insomma William sicuramente con magari un bel pasticcino sotto le grinfie che ci hanno appena portato. Grazie. Sarà davvero grande la tentazione, secondo me l'hanno fatto apposta per vedere se riusciamo a resistere, però insomma almeno un po' di spirito natalizio ognuno poi lo vive nel sì. modo che insomma preferisce. E insomma vediamo a livello mondiale quali sono le tradizioni natalizie più comuni. Sì, e poi da parte vostra ci aspettiamo, non so, al 333 180 9494, non so, una sorta di confessione anche. Avete mai riciclato un regalo? Perché anche i regali insomma, ma molti di voi sicuramente ancora devono finire di farli. Diciamolo. E qual è stato ad esempio un regalo che non voglio definire più brutto, perché non esistono regali brutti secondo la mia filosofia, a proposito di essere più buono, intanto, ma il più particolare, il più originale, quello che vi ha stupito di più, oppure quello che semplicemente non vi aspettavate. Per questo Natale 2013-2014 siamo tutti quanti in attesa, perché ovviamente siamo ancora al 20 e quindi la nostra playlist comincia aspettando Babbo Natale. Mr. Kringle is soon gonna jingle the bells that'll tingle all your troubles away. Everybody's waiting for the man with a bag, 'cause Christmas is coming again. He's got a sleigh full, it's not gonna stay full. He's got stuff to drop at every stop of the way. Everybody's waiting for the man with a bag, 'cause Christmas is coming again. He'll be prayers that you've made through the year, you'll get yours. If you've done everything you should, extra special good, he'll make this December the one you'll remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting for the man with a bag. Christmas is here again. Thank you. so good he'll make this December the one you'll remember, the best and the merriest you ever did have. Everybody's waiting, they're all congregating, waiting for the man with the bag. Better watch out now. Ed eccoci qua di rientro, aspettando Babbo Natale, aspettando i regali, aspettando tutto ciò che può rendere per un attimo, oltre il relax, qualcosa anche di aggregazione. I colori sono il rosso e il verde, ma anche una menzione d'onore a chi lavora veramente per il Natale, le renne. Povere renne che sono lì a sgobbare un po' sulla terraferma, un po' volando nel cielo, insomma sicuramente sono quelle che si fanno il mazzo a Natale, tutto il mondo. Pensa solo quanto è ciccione, quanto è corpulento Babbo Natale, scusate, non volevo essere scorretto, pensa solo a quanto è robusto Babbo Natale. E pensa anche quanti regali ci sono sulla slitta, perché insomma, esatto, per dare a contentare tutti i bambini del mondo. E sicuramente in tutto il mondo le celebrazioni natalizie sono appunto una delle feste più globali in assoluto. I festeggiamenti possono essere ovviamente diversi per ogni paese e ovviamente ogni cultura ha la sua particolarità. E allora, per esempio, in Francia, che è un paese appunto tanto vicino a noi, le celebrazioni cominciano il 5 dicembre perché è appunto la giornata che ricorre il San Nicola, e quindi loro sono più vicini a noi rispetto all'8, che invece è l'Immacolata, dove noi di solito facciamo l'albero. Del perché... resto, se Parigi avesse l'Humer sarebbe una piccola Berry, capito, come San Nicola. Ma infatti però il momento più importante è quello della vigilia di Natale in assoluto, dove le campane delle chiese insieme ai voci dei cori iniziano a cantare in tutte le strade, e il giorno di Natale le famiglie vanno in chiesa godendo poi ovviamente di una festa molto ricca con tanti piatti succulenti, che ovviamente penso che sia un po' l'anello di congiunzione di tutto il mondo, perché insomma a Natale mi sa che un po' tutti, che almeno quelli che possono, si danno libero sfogo alla gola, no? Per poi pentirsi. Per no? poi pentirsi amaramente, quindi tutte le tecniche, corri, salta, mangia il sedano. Certo, io prima di Natale devo assolutamente stare attento e voglio mangiare, non lo so, una carotina bollita, le patate lesse, così, l'acqua naturale assolutamente, ma il dolce, già difficile mantenere tutto ciò, poi se arriva Natale c'è uno sbrago completo. Ci sta, insomma, l'importante è contenersi nei limiti, non diventare assolutamente... Come Babbo Natale. Come Babbo Natale, esatto. Ma non fate le lacrime di coccodrillo, perché insomma non ci dovete solo pensare a questo, ma anche per esempio a passare il tempo in famiglia, perché almeno è una di quelle poche ricorrenze riconosciute a livello statale che ti dicono: no, dai, almeno a Natale stai a casa con la tua famiglia, anche se ho visto alcuni negozi che c'era scritto aperto a Natale. Lì veramente bisognerebbe fare qualcosa, prendere dei provvedimenti assolutamente, non solo più la domenica ma anche il Natale, e accidenti, anche per un cinico come lo Scrooge William diventa una cosa insopportabile. Importante invece stare assieme. Più tardi la playlist non sarà una ruota del disco ma una ruota della playlist, perché ieri sera devi sapere che non ho resistito e mi sono immaginato una colonna sonora anche di baci sotto l'albero di Natale. Ah beh sì, ovviamente non saranno solo brani che si possono proprio ricondurre al Natale, ma anche tutto ciò che ci fa ricordare. Ogni tanto ci sarà qualche citazione tutta cuoricini che improvvisamente arriverà. Noi manteniamo però per adesso, ci manteniamo come sempre poi del resto legati al lavoro. In rientro presentiamo una ad una le renne per nome e cognome, fino all'ultima che teniamo ovviamente, che sarà poi il luce, la luce. La luce, il capo. E per adesso, a proposito di passare il Natale insieme alla persona amata, Ray Charles, Alleluia, I Love Her So. She brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know. his love is so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know. Hallelujah, I deserve it so. If I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. So I know. Hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so. She's my little woman, wake all the time. Babe, that a blitz and dash and dance the Prince of Vixen. Avete appena ascoltato l'appello di Babbo Natale, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Domer, Blitzen, che sono i nomi delle renne, cioè Saetta, Ballerino, Schianto, Guizzo, Cometa, Cupido, Tuono e Lampo. Hai visto? Giustamente volando nel cielo dovevano rimandare, richiamare un po' questi elementi, sì, no, stellari. E di velocità poi arriverà quella col naso rosso che tutti sappiamo, famosissima, la più importante, Rudolf, insomma, la renna dal naso rosso che è stata aggiunta alla squadra principale delle renne di Babbo Natale in seguito al grande successo della canzone natalizia Rudolph the Red-Nosed Reindeer, scritta da Johnny Marks nel 49. Ah, pensa te. E infatti, insomma, grazie a Rudolph col suo naso rosso che Babbo Natale riesce a capire dove deve andare, sì. Insomma, se no si schianterebbe contro il primo aereo di passaggio. Ah, sai che ho visto un aeroplano, così ho visto la fotografia, neanch'io non ricordo neanche in che occasione, però me l'hai fatto venire in mente tu, di un aeroplano vero proprio col Babbo schiantato sul muso, sì sì. E intanto mentre noi ce la ridiamo arrivano i messaggi, ci scrive nonna Ebe che dice che è in ascolto e dice: il mio desiderio da chiedere è che tutti i miei cari siano almeno sereni, sentiremo i nomi di queste renne che sono davvero tante, infatti. Sì, sono queste, grazie nonna Ebe, siccome sono fra i cari ringrazio in maniera molto partecipe a questo appello e a questo desiderio e ovviamente ricambiamo sia io che Elisa l'augurio. Assolutamente, faccio anche gli auguri a Sara che oggi è il suo compleanno. Oh. E quindi almeno festeggiamo tutto insieme, anche se a volte insomma quando si ha il compleanno sotto le feste di Natale spesso uno dice però insomma il regalo poi è uno, non faccio il doppio. E insomma anche qui parlando di regali, per chi appunto ancora non ha avuto idee o tempo per comprarli, sono andata a spulciare un po' nella rete a trovare qualche bizzarra idea di regalo e pensa addirittura questo potrebbe essere un regalo davvero utile per gli amanti delle piante. Esiste un traduttore della pianta che parla nella nostra lingua, cioè c'è un sensore nel terreno che capisce ovviamente attraverso l'umidità quando c'è bisogno di rinnaffiare la pianta e parla dicendo all'uomo: sto morendo, innaffiami. Mandandoti addirittura un sms sul, certo, telefono per avvisarti che se non hai un buon pollice verde almeno c'è un sensore che ti dice: ti prego innaffiami perché voglio vivere. Sì, una richiesta disperata d'aiuto grazie alla tecnologia che per Natale la farà da padrone come al solito. Ultimamente pare proprio che i regali più frequentati o diciamo più usati, per meglio dire, visto che si parla di oggetti, sono proprio quelli legati alla tecnologia. Ah sì sì, non c'è crisi assolutamente, anzi spesso c'è chi taglia sul cibo ma si compra assolutamente l'iPhone quello che insomma desidera. Un giradischi. Sì, infatti io insomma devo parlare del mio Babbo Natale personale che insomma è intervenuto un po' prima della vigilia e mi ha appunto portato questo regalo un po' in anticipo, però insomma è stato il giradischi CD-ROM MP3 convertitore, una bomba. È arrivato un Babbo Natale in anticipo, assolutamente importante per Elisa, assolutamente importante per il vinile e per la tradizione musicale, ma di questo ci parlerai dopo Funky Funky Christmas di... Non si sa, lo scopriremo dopo il brano. Smelling good. Per Elisa del Funky salta fuori anche in periodo natalizio, del resto questo è un Christmas Groove, la puntata numero 11 dello Special Twice che porta gli Electric Jungle. Eh sì, scusate, ma questa mattina è stata davvero dura la sveglia, mi sa che dovrò carburare, però intanto il dolce è iniziato a entrare in circolo nel sangue. Esatto, quindi adesso una bella pompata di zuccheri, posso farcela. Ma sicuramente ce la faremo. 10:49 minuti, questo è lo Special Twice, diciamo così, che prende forma con tutti i colori rosso e verdi del Natale, con le palline di Natale, con le decorazioni, con il rito dell'albero di Natale. Eh sì, in realtà poi anche l'albero di Natale un po' pagano, un po' no, perché rientra sempre nella tradizione cristiana, come sempre guida, tradizione, infatti si mettono le luci perché è un po', no, la guida spirituale che si illumina. Beh, però certo, insomma è rientrato ovviamente anche nel lato pagano, perché era un po' il simbolo accostato al presepe, che poi parleremo anche del presepe, però insomma abbiamo. C'è chi lo prende finto, c'è chi lo prende sintetico, vero. Io addirittura quando ero piccola mio padre prendeva quelli veri, però poi li piantava in giardino, e ho ancora i primi due alberi di Natale comprati però in giardino, che sono più alti della casa. Questa è storia, ascoltatrici e ascoltatori, casa Jacobucci ha ben due sequoie ormai a posto che due pini natalizi. Invece devi sapere che alle stanze, dove ci possiamo ritrovare domenica, così unisco l'utile alla marchetta, con le puntate dei Love Radio Live ormai resident nella prestigiosa cornice di via del Borgo San Pietro 1 nel centro Bologna, c'è una ragazza svedese, Julia, che lavora nello staff delle stanze e mi ha detto: ma come, voi non andate fuori coi genitori a prendere un albero e poi dopo lo piantate? Sì, beh, cioè, mi sono immaginato io che vado in via Ruggi, hai capito, a tagliare alberi in giro con tutti gli alberi che ci sono, hai capito? Sì, diciamo che è più la tradizione nordica. nordica, assolutamente. Però sì, forse magari una volta che c'era ancora un po' più la tradizione si prendeva l'albero, però in realtà l'albero vero, a parte che è un po' un peccato, non è una scelta molto ecologica per noi. Vabbè, io almeno nel mio caso sono stati ripiantati in giardino, quindi erano assolutamente, cioè, piantati e strapiantati negli anni, cioè. Poi ovviamente il pino diceva: oh, non è che io sto qua per la grazia vostra di Natale. Era ormai tutto secco secco, diceva: vabbè, la lasciamo stare, ha dato il suo. E quindi ha fatto la sua parte per questo Natale. E voi per questo Natale cosa vi ricordate o cosa farete o come sarà queste feste, queste ricorrenze che non sono solamente natalizie ma che comprendono anche ultimo dell'anno, capodanno, poi la Befana, la bellissima Befana, alla quale io sono legatissimo per episodi personali molto particolari, che poi ci racconterai assolutamente. Sì, quello proprio devo fare coming out, perché quella Befana lì a me mi ha fatto diventare uomo. Ti rendi conto? Io sono diventato uomo. Non è stata la scoperta in realtà di quello che noi sappiamo, ma è stata quest'altra cosa. La Befana è stata molto importante, ma lo scopriremo nel proseguio di questo Special Twice. Per adesso però, a proposito di grandi brani reinterpretati in versione natalizia, senti un po', cara Elisa, quant'era affinato Bart Baccarat, e nel suo romanticismo infinito dedica una canzone a un campanellino di Natale che purtroppo è da solo e non riesce a suonare. Che classe, che capacità infinita nella composizione di Bart Baccarat, è riuscito persino a mettere insieme un jingle bell con questa sua scrittura particolare. Bravo, fenomeno. Ah, assolutamente, possiamo anzi collocarlo tra gli spiritelli del passato, perché comunque rientra. Sì, esatto, l'abbiamo avuto anche in studio, abbiamo fatto un sacco di domande, sì. Ha distrutto tutto perché sai, i suoi arti sono un po' sregolati. Non si controlla, però sicuramente fa parte di quel passato del nostro Special Twice e ci piace ricordarlo in questo pre-Natale, in questo venerdì di 20 dicembre. Sì, e ricordiamo anche per i vostri SMS il 333-1809494 per chiacchierare, per farci gli auguri. Noi ci prendiamo una piccolissima sosta natalizia, quindi diciamo così, se vogliamo farci i saluti, questa è l'occasione migliore di questo venerdì 20 dicembre pre-festivo, e perché no, chiacchierare anche a proposito di Natali particolari, regali particolari, situazioni per così dire che a volte possono possono sembrare quelle di una normale festa, ma che a volte improvvisamente vengono colte da imprevisti incredibili. Questo durante le feste con i parenti, diciamo che succede, esatto, molto spesso. È proprio quello che vogliamo andare a snocciolare, andare a studiare, andare a scoprire anche di voi. E se volete partecipare, abbiamo anche la pagina Facebook. Assolutamente, Special Twice, cercatelo su Facebook. Intanto sto pubblicando delle foto e sto chiedendo che cos'è, perché è una storia particolare che poi vi racconteremo. Dopo la pubblicità, per adesso sono arrivati a farci gli auguri i Beach Boys. A dopo la pubblicità, Special Twice. You've all been told, and a real famous cat all dressed up in red, and he spends the whole year working out in his sled. It's the little Saint Nick. Hear me calling you, I need you. Cupid. Cupid, don't make me cry and let your arrow fly. Caro Cupido, non mi far piangere, fai volare la tua freccia per fare innamorare la mia diletta. Sono parole di Sam Cooke, molto natalizio. Molto natalizio, sì sì, cioè questo clima che si crea da cioccolata calda e cammino proprio. Vedi che improvvisamente da verde e schifido divento buono anch'io con questa. Ma no, ancora dobbiamo passare allo spiritello dell'anno presente. Ancora devi fare il cattivo, William, insomma, se no non regge. Siamo fuori tempo. No, poi a parte gli scherzi, che scherzi, sono cose serie. È anche una dedica a Cupid, che è una delle renne. Ah beh, certo, è il giusto. Nome di una delle renne, Cupid. Se parliamo delle renne siamo serissimi, assolutamente. Sì, e gli unici che lavorano. Sono gli unici che lavorano qua, per cui. E se sicuramente ci sarà un sindacato nel Polo Nord che si occuperà. Sì. No, nel Polo Sud, scusate. Della Lapponia, non sono in Lapponia le renne. Ah, dici che... Ma perché in realtà con la globalizzazione anche Babbo Natale ha dovuto diversificare e aprire, insomma, le varie dite, insomma, ha delocalizzato, sì, perché sennò non ci stava dietro. Le calotte si stanno sciogliendo e non si capisce più niente. No, perché insomma, tu apri una fabbrica, quella già si scioglie, non sai più dove mettere le cose, che non c'è proprio lo spazio per posizionarle. Però, insomma, banda alle ciance e ritorniamo un po' alle tradizioni, quindi, del Natale. Andiamo questa volta in Germania, la nostra cara è un po' invidiata Germania, che come noi ovviamente anche i tedeschi si preparano al Natale durante tutto il freddo dicembre, anche se molti, bisogna dirlo, che aumentano anche iniziando da novembre, mi sembra un po' eccessivo, però insomma è bello l'attesa, è bello aspettare, però quando si arriva il primo di novembre che ci sono già panettoni e luci di Natale, insomma un po' te lo fanno proprio odiare questo Natale, diciamo. Hai capito? No, infatti. Ma guardiamo il lato positivo. Già 4 domeniche prima di Natale usano fare una corona di avvento fatta di rami di abete e di pino con 4 candele colorate, e ogni domenica accendono una candela della corona fino ad arrivare giustamente a Natale, cantando canzoni natalizie, mangiando biscotti. E ovviamente le case sono piene di odori deliziosi, di pagnotte di pane dolce al forno, dolci con frutta candita, biscotti speziati. Basta. Se no qui iniziamo a creare incandescenze elettriche. Sì, facciamo dei corticircuiti. Noi qui però abbiamo degli ottimi profumi dovuti alle candele che porto ogni mattina. In questo caso abbiamo la mela verde, che verde, abbastanza diabete da No, natalizio. Infatti ci siamo, ci sta, assolutamente, e infatti rimanendo in tema colorato ci avviciniamo anche alle colorate note. Senti, intanto il campanellino c'è e questo potrebbe essere un inizio scontato, ma aspettate, perché la svolta è dietro l'angolo. Sì, non abbandonate i 103.1 di questa forma dell'acqua, insieme a William Piana e Elisa Iacobucci, lo Special Twice. Christmas, have yourself a groovy little Christmas and a funky new year. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Dashing through the snow in my full-blown GTO. Una citazione dopo l'altra, complimenti per la playlist a Elisa Iacobucci. Qui cosa abbiamo? Ah. Silver bells, ah. It's Christmas time in Miami, Fort Lauderdale, Palm Beach, FLA. Insomma, in tutta la West Coast. Eh sì, sì, assolutamente. Miami, Florida, Orlando, yeah. Questa è adatta al nostro giro del disco, alla sì. Ruota del disco. Si lascia spazio al commentino, a qualche cambio, diciamo così, di per equalizzare meglio i bassi e le frequenze, ma anche gli alti, come la coppia di lunghi, William Piana e Elisa Iacobucci. E siccome hai avuto una compila, come dicono i giovani, preferisco playlist, così fantasiosa e preparata, adesso ci racconti la epopea del tuo regalo di Natale. Allora, io diciamo che avevo il desiderio così di scrivere una lettera a Babbo Natale, di dire, visto che sono stata tanto brava, tanto buona. Sì, è vero. E volevo insomma un regalino musicale, insomma, siccome avevo avuto dei problemi con lo stereo, volevo un giradischi, adesso ci sono queste super nuove tecnologie che combinano il CD-ROM, l'MP3 e il giradischi. Ho detto, beh, quale cosa migliore, quale regalo migliore per questo Natale se non fare una specie di pacco, dove in realtà un mashup, esatto, in tutto, anche convertitore, solo che ho comprato questo fantastico attrezzo tecnologico, ma c'era un problema con la puntina, non andava, quindi ho dovuto riportarlo. Solo che l'assistente tecnico del reparto non sapeva come funzionava il giradischi. Perfetto, un tecnico perfetto. Esatto, infatti dicevo, no, guarda che devi togliere la copertura della puntina, se no non legge. Ma va? Poi devi spostarla a destra in modo che poi magari parta anche il piatto. Lui, ah beh, giusto, comunque sì, c'è qualcosa che non va. Sì, la mia testa. No, però è stato molto gentile, assolutamente. Voglio dire, sotto Natale immagino quante persone vadano, sì. Quindi insomma la pazienza, sì, ci vuole. Però insomma un minimo di competenza, insomma. A tale proposito però volevo aggiungere gli auguri particolari, oltre che alle renne di Babbo Natale, a chi lavora all'interno dei centri commerciali, a chi lavora all'interno delle rivendite, che non conosce sosta, non conosce pausa nemmeno in questi giorni. Insomma, un augurio, se magari qualcuno è all'ascolto, noi siamo solidali tra virgolette, cerchiamo con ottima musica e qualche chiacchiera divertente di farvi compagnia, e siamo assolutamente, e magari di non venire a Natale nel vostro negozio, in modo da evitare assolutamente giornate piene in più. Ne avete già abbastanza senza anche la nostra presenza che teniamo però su Radio Città Fujiko sui 103.1, e cerchiamo di stare tutti assieme, e infatti Let's Stay Together con Al Green. Say, say. Perdo delle volte dei momenti di riflessione, perché Marvin Gaye per me è il numero uno, ma se c'è un numero uno deve esserci anche un numero due per forza, e il primo, diciamo così, soul singer che mi viene in mente è Al Green. Ma infatti lui davvero possiamo posizionarlo al vertice, perché spazia regalando davvero sonorità e grandi emozioni, non dà mai fastidio perché riesce sempre a centrare per ogni evenienza il suono giusto. Hai detto proprio bene, ed è uno dei primi anche a legare così perfettamente la scrittura canzone più bianca, permettetemi il termine, con invece qualcosa che ha il ritmo e il calore del soul al proprio interno, un po' più groovy come questo Christmas speciale. Quindi giradischi per Elisa, mashup con convertitore e quant'altro, e per Charlie Marchesini invece chissà. Ah, chissà, infatti intanto la salutiamo perché appunto è partecipe sulla nostra pagina Facebook, ricordo lo special Twice, dove appunto avevamo chiesto attraverso un'immagine che cosa rappresentasse, si vedeva diciamo un mix di colori, qualcosa che scoppiasse, insomma è una pala di Natale, ma non è un Photoshop come pensava appunto Charlie, ma è l'idea di un artista che in realtà dovete stare attenti, perché se vi capita in casa potrebbe prendere una di quelle pale natalizie di vetro dei vostri magari bisnonni e compiere lo scempio, perché in realtà si è chiuso nel suo garage e con un bel fucile ha messo tutte in fila le palline riempite di sabbia colorate o di vernice, e sparando ad ogni pallina ha associato uno scatto fotografico, e quindi è riuscito a immortalare il momento preciso in cui tutto scoppia in un mix di colori, ovviamente che dà il suo effetto. Assolutamente, diciamo che io non condivido il mezzo, però l'aspetto visivo, se i fucili vengono utilizzati per questi scopi, allora anzi se facciamo una conversione, esatto. Solamente per tutto ciò, 11:17 minuti, chi abbiamo nominato prima di Al Green? Marvin Gaye? Eccolo qua. Thank you. spirito del Buon Natale è arrivato, già presente nei nostri studi con il grandissimo Marvin che abbiamo avuto ospite insieme a Bart Baccarat, insieme anche a Michael Jackson, per cui abbiamo avuto degli spiriti di Buon Natale che hanno anche grandissimo talento musicale. Beh, lo Special Twice del resto vuole anche questo, anzi solo questo, soprattutto artisti che abbiano, diciamo così, il groove nel sangue e non solo, ma che abbiano anche capacità di aggregazione per passare due ore insieme spensierate, ma nello stesso tempo anche con una colonna sonora ricercata. Sì, diciamolo. Sì, sì. E intanto ci scrive Charlie dicendoci: ma la lista da Babbo Natale l'avete fatta o no? Beh, dice: io ci ho messo dentro un'ottica 50 mm, un microfono shotgun e anche un po' di fortuna per la tesi. Vabbè, allora in bocca al lupo, assolutamente, crepi, te lo diciamo, perché sicuramente andrà benissimo. E intanto ricordo anche il numero per mandare messaggi: 333-180-9494. Se avete un ricordo particolare del Natale, magari una di quelle cose un po' imbarazzanti legate ai parenti, sai, bellissimo, che meraviglia. E poi ognuno sicuramente ricorderà anche con tanta gioia, perché insomma in quei momenti può essere imbarazzante, poi ripensandoci insomma il sorriso scappa sicuramente. Eh beh sì, pensate che inizio io con uno dei tanti, perché ne ho almeno due all'anno da raccontare, che ne ho anche dimenticati. Ad esempio, già da quest'anno è dal 7 giugno che mia madre ogni volta che mi vede mi dice: allora il 25 sei da me? È dal 7 giugno, giuro che ogni giorno che... allora il 25 sei da me, allora il 25 sei da me. Io penso che ci sia una bambolina dietro che quella tipo da possessa di tua madre. Sì. Allora il 25 sei da me, allora il 25, sì, 25. Fa parte anche quello del fantasma natalizio, sì, del passato e del presente. Mamma mia, che ansia, perché poi viene anche l'ansia, dobbiamo fare i regali. Come dobbiamo? Cioè li fai se te lo senti. No, e improvvisamente ecco, torna il Grinch, torno verde, incredibile. Quando sento questi discorsi, i regali li farai se sei ispirato, non perché li devi fare, o no? Sì, no, no, diciamo che poi ovviamente c'è tutta la parte commerciale che ha abusato e giustamente si approfitta di questo momento, perché sa che insomma le persone si sentono obbligate a spendere, espandere, quindi insomma... questo mi fa diventare verde. Invece, infatti, insomma, si sa che i tempi sono un po' da tirare la cinghia, però insomma sotto Natale tutti riescono in qualche modo a fare qualche sacrificio e a unirsi a tavola e a fare qualche banchetto in più. Sì, e quindi a tale proposito, brava Elisa, due quesiti importantissimi: pandoro o panettone? Questo è molto difficile, anche perché la puoi sezionare in colazione o dolcetto giornaliero. Sei una professoressa. Ho capito. Bene, quindi allora abbiamo pandoro o panettone, a seguire purè o lenticchie. Ah, dici, oh, cappone o zampone? Sì, tortellino o cappelletti? Ce n'è, ce n'è. Però forse le più rappresentative sono il contorno, che è la lenticchia o il purè. Io sinceramente, da quando ho scoperto le lenticchie... Ah, poi le lenticchie si sa che da tradizione portano soldi, quindi tutti che si danno giù con quel cucchiaio. Speriamo che sia una tradizione che viene rispettata, però insomma non si direbbe, comunque in tutti i modi noi continuiamo a crederci. Ah sì sì. Allora cara Elisa, nella nostra playlist ci sono stati dei Purple Snowflakes di Marvin Gaye, dei fiocchi di neve color porpora, quindi sì, diciamo anche un pochettino inquietanti. Ma cosa succede invece se arriva improvvisamente prima della pubblicità una luna blu? Eccola qui. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Mm-hmm. without a love of my own. New moon, you knew just what I was there for. You heard me say a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. De novo aqui, brother. Incomodando aqueles que em suas mentes são instáveis, dividindo-as em todos os sentidos, brother. A inteligência criadora de todos os homens, que é Deus, não discrimina as pessoas, as raças e as cores, brother. E responde a você, abrindo as portas do cárcere. Quando você vive numa prisão psicológica de ódio, de inveja, de vingança, brother, há sempre um bom caminho a seguir. Acalme sua mente neste Natal e em todos que hão de vir, brother. Deus sempre é a resposta de tudo, brother. Porque eu, você e Deus somos uma pessoa só, brother. Nossos corações no jardim vão se transformar. Em todos os sinos felizes vão tocar. Ao som do jingle back, vamos dar as mãos. Em todos os sinos, todos somos irmãos, brother. Natal pra você também, irmã. Feliz Natal pra você, irmão. Eu nunca poderia esquecer o quanto vocês marcaram a minha vida, Black. E vocês também, irmãos do samba. Hoje é Natal, amanhã é Carnaval. Não se acomodem em seus radicalismos, falando palavras putas que só resultarão ainda mais no amor, Black, por vocês. Amor swing é só o que arrancarão de nossos corações, brother. Nossos corações no jardim vão se transformar. Em todos os sinos felizes vão tocar. O som do jingle back, vamos dar as mãos. Em todos os sinos somos todos irmãos, brother. È il primo caso di trasmissione radiofonica in cui la playlist la fate voi. Esatto, infatti ringraziamo Zagor lo Spirito che ha pubblicato questo video sulla nostra pagina. Noi abbiamo dedicato un piccolo, questo è un regalo di Natale da parte nostra, sì, e abbiamo mandato, sì, in onda, esatto. Così hai potuto anche tu partecipare alla playlist. Caro Zagor, e complimenti per l'ottimo gusto musicale, sul quale io non ho mai avuto nessun dubbio, anzi unicamente ammirazione, perché con questo brano, già dal titolo titolo estremamente esplicito e allineato col nostro gusto, Jingle Black. È Jingle Black, va benissimo. Va benissimo. Dopo sì. Il primo, il gruppo quello un po' più bianco, abbiamo riaddrizzato l'asse sul nero. Sì, siamo arrivati al Jingle Black. Ma ringraziamo anche un nuovo ascoltatore. Grazie Frabbo, perché hai capito perfettamente lo spirito del nostro Natale, cioè l'aneddoto, l'episodio che ci rimanda non solo indietro, ma anche così, come buon auspicio, anche se di buon auspicio purtroppo no, infatti sì, infatti dice: tornando all'albero di Natale, i primi 12 anni della mia vita hanno visto 12 piccoli abeti che venivano sistematicamente piantati da papà e nonno nella terra che avevamo in montagna per fare un boschetto che simboleggiasse i miei Natali e quindi la mia vita. Poi è venuta una frana e ha spazzato via tutto. Oh. E la simbologia ha finalmente acquisito un senso. No. Auguri, ragazzi. Beh, grazie, auguri. Insomma, sì, sì, devo dire che ha centrato in pieno il nostro spirito natalizio. Sì, sì, benvenuto nel club. Siamo in pochi ma buoni. Zagor, Frabbo e Charlie Marchesini. E aspettiamo tanti altri, ovviamente. 333-180-9494. Regali, aneddoti, curiosità, ripetizioni che però non stancano mai. Le mamme che dicono il 25 ci sei, il 25 ci sei. Con aggiunta. Ovviamente del panone o certosino. E io invece che chiedo a mia sorella: ma c'è abbastanza da mangiare? Ma c'è abbastanza da mangiare? Sì, perché ovviamente per 4 metri di sorelle ci vuole anche tanto da mangiare, mi rendo certo. Conto. Certo che siete state una spesa, eh. No, ma infatti ognuno ha richiesto il suo, diciamo che. Sì, siete venute bene, Natale. Però insomma, diciamo che siete state anche importanti dal punto di vista economico. Ma c'è un ricambio, indubbiamente, col grande talento di Elisa. E salutiamo anche Alessandro. Ah sì sì, ci sarà sicuramente ascoltando nelle sue faccende di casa, è andato. L'ascoltiamo, speriamo che ci ascolti, la salutiamo. E intanto volevo dare una piccola chicca, così pillola legata alle curiosità e alle tradizioni del Natale, legata all'Inghilterra. Ovviamente Natale altro che freddo e umido rispetto al nostro. Sì. E la vigilia è molto impegnativa perché ovviamente avvolgono i regali, quindi è una cosa di impacchettamento così last minute. Fanno i biscotti e ovviamente c'è la classica storia natalizia che si racconta intorno all'albero, come Christmas Carol o The Night Before Christmas, e i bambini scrivono la letterina di Babbo Natale proprio allo scoccare quasi della mezzanotte e la bruciano nel fuoco del camino, così che i loro desideri possano andare su per il camino e essere letti durante la visita notturna. Bella questa idea. Carina. Bella. Sì sì, non ci ho pensato al fatto che Babbo Natale, intanto che riusciva a strusciarsi contro le pareti del camino, riuscisse anche a leggere i vostri e i nostri desideri. Non siamo Babbo Natale, indubbiamente, e nemmeno la Befana, però potete inviare i vostri desideri al 333-180-9494 per un semplice motivo: perché nell'aire, nell'etere vola Babbo Natale. Sì. Quindi può leggere questo anche basta. Da lì. Hai capito un po' com'è, come questa The Best Thing, molto natalizia, degli Style Council, adattissima per una prima colazione, però perché no, anche per una merenda alle 11:36 minuti. Paul Weller, Mick Talbot, The Style Council, You're the Best Thing. Your smile lighting up my day. The one that makes me Questo è un regalo che mi sono autoconcesso. Style Council, non riesco veramente a resistere a Paul Weller e a questa formazione che veniva così presentata in duo ma con tanti musicisti di grande talento, ad esempio la vocalist di Si Li. Cara Elisa, dobbiamo tornare in diretta, perché? Perché intanto dobbiamo ringraziare Zagor che ci ha scritto e ha detto Moshop con il suo classico stile bolognese, dicendo grazie. Comunque Pandoro, Zampone, meglio Zampetto e Panone. Buone feste a voi che siete grandi, grazie. Sì, in effetti, piccoli no. No, piccoli no. E quindi giustamente doppi auguri natalizi, perché insomma dobbiamo sostenere tutta l'altezza e tutta la grandezza. Sì, al venerdì 20 dicembre siamo già arrivati alle 11.42, i morsi della fame si stanno iniziando a far sentire, ma noi resistiamo, al limite andiamo in redazione e sbanchiamo e apriamo un Pandoro, se proprio. Sì, perché l'abbiamo visto che c'era, che quindi... Per me ce l'ha nascosto apposta. Ma infatti sì, appena siamo entrati hanno tirato fuori i pasticcini, non è un segnale questo della serie. Sì, non ci vogliono assolutamente, ma noi faremo un'irruzione, ci imponiamo fisicamente. A proposito di imporsi, e con ovviamente l'obbligo di presenziare assolutamente alle feste natalizie, altra cosa che mi fa diventare incredibilmente verde, il famoso detto Natale con i tuoi e Pasqua con chi e vuoi. Pasqua con chi vuoi, però di solito bisognerebbe mantenere tutto ciò, però come si fa a restare lontani dalla famiglia che in queste feste ha occasione di riunirsi nonostante i momenti estremamente concitati, frettolosi, forse anche per quello che mi sento particolarmente buono quest'anno, perché voglio andare contro a tutto quello che è la frenesia, a tutto quello che è l'ansia, lavorare 16-17 ore al giorno, sì, perché poi devo guardare sullo smartphone se ho degli appuntamenti. Se un salvagente deve essere restare un pochettino assieme in relax a leggere un libro, ascoltare un vinile, ascoltare una buona musica in piena digestione, cosa vuoi di meglio, al tepore, al caldo. E intanto insomma ricordiamo anche che siete ancora in tempo per fare un po' di regali, stiamo ricordando che la tecnologia sta dando veramente a ruba, e allora vi ricordo un'altra perlina che ovviamente insomma ha un costo un po' elevato, però è più per la curiosità. È una perla, esatto, è una maschera da sci multimediale, quindi invece di aspettare con impazienza la commercializzazione dei Google Glasses, invece hanno creato questa maschera da sci dove in un angolino tu puoi vedere la velocità, la pendenza, puoi connetterti a internet, wifi, bluetooth, quindi praticamente tu sei in pista, però hai una maschera multimediale che ti dà tutte le indicazioni della pista da sci, insomma un oggetto davvero da alta tecnologia. Io stavo pensando a un'altra cosa, tu hai mai sciato? Io sì. Ah, io mai, non so nemmeno da che parte proprio, non ne ho. No, ma infatti, tra l'altro, sono stata anche campionessa. Contenta. Sono stata campionessa mondiale. Sai come bene, essendo alta, il bacino è alto, e quindi insomma, trovare l'equilibrio quando vedi i bambini piccolini che quelli ti passano in mezzo. Ma infatti, facevo gara con la mia amica, ci mettevamo a uovo, però lei andava più veloce perché essendo più piccola aveva un impatto minore rispetto a me che cercavo di farmi piccolissima, ma ovviamente non riuscivo mai a arrivare prima. Certo, immagino. Io invece non ho mai neppure fatto una settimana bianca. Io pensavo che la montagna più alta che esistesse fosse quella della Lunetta Gamberini, un giardinetto che si trova tra via Dagnini e via degli Ortolani, in zona quartiere tra Savena e Santo Stefano, ma magari chi è all'ascolto lo conosce benissimo, però visto che ci ascoltate anche in streaming, meglio essere precisi. Negli anni 70, quando ci andavo a giocare, vi era questo accumulo di terra che era forse 4 metri, 6 metri. Ah, e io dicevo, la punta. Io dicevo, mamma, vado in montagna. Per me però montagna almeno le colline bolognesi almeno sono un po' più alte, sì, possono dare sfondo un po' più in alto. Per quello che non ti piace la neve, perché se la vivi in città e non te la godi in montagna, è chiaro che è più il fastidio che il piacere. Sì, io non sono proprio per nulla montanaro, sono il tipico uomo della bassa tra i due, anzi non tra i due, sono uomo della bassa e ne sono assolutamente fiero. A tale proposito, il mio più caro augurio e il mio più caro saluto e abbraccio di buon Natale a tutti i paesi della Bassa e del Delta, con tutti i parenti e gli amici che vi sono, ne approfitto per avvolgerli con le mie braccione lunghe e per augurargli un buonissimo Natale 2013 e anno 2014. A proposito dell'anno nuovo, mi raccomando, perché più tardi rientreremo con un appello molto molto importante dalla selezione di Elisa Iacobucci, dalla playlist portata per questo Christmas Groove, non può mancare Otis Redding. No, assolutamente, allora ascoltiamocelo, restate con noi 103.1. Grazie al grandissimo Otis, un buon Natale, ovviamente gli auguri che si spargono nell'etere e arriveranno sicuramente al grandissimo della musica rhythm blues che scompare giovanissimo, purtroppo un volo aereo sarà tragico per lui, ma diventa angelo protettore di questi Natali, ma soprattutto di queste note legate al soul e soprattutto al rhythm and blues. Intanto, cara Elisa, sono già le 11:49 minuti, ci stiamo avvicinando all'ultimo stacco pubblicitario. Abbiamo da ringraziare qualche contributo che è arrivato per farci gli auguri? No, non allora ancora, anche perché abbiamo sì dei problemi tecnici anche. Problemi tecnici su problemi tecnici, ma in realtà è più un problema di polpastrello, mi sa che questi touchscreen con le mie dita in questo caldo non funzionano molto, però volevo ricordare un po' sempre tra le curiosità qualcosa che si legasse a Babbo Natale, cioè andiamo in Olanda dove i bambini attendono con ansia l'arrivo di Sinterklaas, il giorno di San Nicola, che per loro è il 6 dicembre. E Sinterklaas in realtà è un vescovo gentile, alto, indossa abiti rossi e ha un mitra vescovile in testa, viaggia dalla Spagna ad Amsterdam e ogni inverno porta nel suo col cavallo bianco e non le renne, sì, un enorme sacco pieno di doni. È legato ovviamente alla figura di San Nicola ed è un po' diverso dal Babbo Natale un po' più classico, che sappiamo insomma nasce in realtà con vestiti e sembianze un po' diverse, poi si sa che quando si è giovani, si è alti, snelli e magari di colori diversi, poi quando si invecchia insomma l'età avanza e quindi anche la panciotta si allarga. Diciamo che non aiuta sicuramente la dieta che noi teniamo, però insomma se dicono che tutto ciò sia legato al benessere, perché no, assolutamente è così, ma non solo, anche all'età purtroppo c'è un detto che aumenta la pancia e cale qualcos'altro, io lo rappresento perfettamente, guardate, così abbiamo dato anche il tocco intimo. Esatto. E tra l'altro appunto San Nicola è la festa più sentita, ne festeggiano la vigilia con la cioccolata calda ovviamente e il letter banquet, che è una torta a forma della prima lettera del cognome della famiglia. Quindi è una cosa proprio di tradizione, ognuno appunto creerà la propria torta in formato famiglia, sì, legato al nome, sì, è un particolare insomma. A che te va male solo una I, sì, sarebbe sottile, dovrei fare una I gigantesca, una I enorme, ma che lettera è? Una I gigantesca, gigante. Beh, io sono diciamo che con la P magari qualcosa si riesce a sgranocchiare. A proposito, cara Elisa, in parte i problemi tecnici, ti do la buona notizia, grazie al tuo consiglio fra l'altro, ma Willy puoi guardarli sotto. Esatto. Non mi disturbare in questo caso e invece il problema tecnico si è risolto così, sì, e mi sa che sarai molto contenta di questa risoluzione, perché ti dedico un brano della grandissima Ella Fitzgerald che si chiama Santa Claus is Coming to Town. Don't come telling you why. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. With little tin horn band, little toy drum band, Ruby Doot Toot and Rummy Dum Dum. Santa Claus is coming to town. Look at that crazy red suit. Curly head claws and cuddle and coo and elephant guns and kitty cars too. Santa Claus is coming to town. Ride, ride, red, ride. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not cry. I'm telling you why. Santa is coming to town. Santa. Get rid of that frown, 'cause Santa Claus is coming to town. Ed è il regalo proprio contenuto nella sacca It's in the Bag di Babbo Natale, ovviamente, che stiamo aspettando. Abbiamo iniziato la playlist aspettando l'omone vestito di rosso e la stiamo concludendo con Ella Fitzgerald che ci invita ad avere pazienza. Eh sì, e poi ci poteva essere il regalo migliore, visto che la sua voce insomma si sa che è grandiosa, ha un'estensione vocale eccezionale e può regalare un Natale migliore solo grazie alle sue note vocali. 11:54 minuti, siamo vicini all'ultimo stacco musicale di questo Special Twice con Elisa Iacobucci e William Piana, per donare un antipasto, per così dire, prenatalizio. The Jive Turkeys, anche questo è un brano selezionato da te, a sorpresa tipo ruota del disco. Sì. Aspetta che lo facciamo partire così, così vediamo un po', ovviamente succede? Sempre così molto lo censuriamo. No, non permetterei mai. Sento che arrivano delle campanelline. È già partito il groove anche, perfetto, ci siamo in pieno, il solito funky, il solito groove qua sui 103.1 con lo Special Twice, The Jive Turkey, e poi torniamo dopo la pubblicità, restate con noi. We'll be right back. Del resto lo sapevate che doveva venire fuori anche il lato romantico, e verso la fine arriva assolutamente, sentendosi liberi con questa bellissima Free. Ancora nutrizione sui 103.1. Allora vi ricordo la nostra pagina Facebook, lo Special Twice, in questo Sexual Healing di sottofondo. Sì, oh, che bellezza, assolutamente importante per Capodanno, ma non solo, sempre, deve essere sempre festa, deve essere sempre motivo di amare e fare splendidi botti con la compagna o col compagno che ovviamente sta a fianco nelle vostre feste, e non solo. E mi raccomando, i botti fateli solamente in un certo modo, non con raudi, petardi e amenità varie che non fanno altro che mettere in pericolo le vostre feste, la vostra salute, quella degli altri, ma soprattutto spaventare gli animali domestici che rimangono in casa da soli per queste giornate. È un appello che io faccio ogni anno e spero che non cada nel vuoto. Non voglio leggere il giornale la mattina dopo e trovarmi davanti a notizie del tipo: persa una mano, perse tre dita, perde un occhio bambino perché il papà giocava coi petardi, e via discorrendo, perché sono agghiaccianti e lasciano, per così dire, una tristezza infinita, oltre che lasciarvi senza le mani o il dolore di aver ferito qualcuno. Quindi i botti fateli in un altro modo, che è anche molto più divertente. Eh sì, fate i botti festeggiando tra di voi in altri modi, e lasciate al massimo quelle stelle filanti luccicose come massima espressione dei fuochi d'artificio. Esatto, e se volete ispirarvi per far certi botti, Free, Dennis Williams. Poi noi ringraziamo anche tantissimo il Bologna Jazz Festival, l'organizzazione intera, media partner Radio Città Fujiko, e ricordiamo anche che il 27 dicembre torna a farci visita, sempre legato a quell'organizzazione, un grandissimo bassista che è Christian McBride. Visto che siamo stati diretti interessati di questa manifestazione. Eh sì, e bisogna ricordare ovviamente anche questa data che diciamo conclude l'anno in bellezza. Mamma mia, che botto che è questo qui. Questo sì che è un vero botto. Questo sì che è un vero botto. A cui partecipare, esatto. Il 27 dicembre, vero? Sì, alle ore 21 al Teatro Duse, il 27 dicembre potete ascoltare un concerto, Christian McBride, prezzo d'entrata €15 proprio per, diciamo così, mettere a... un regalo di Natale in questo tono, esatto, ecco, sì, diciamo, definiamolo in questo modo, soprattutto alle vostre orecchie, con la sua formazione Straight Inside, per un concerto che mette insieme groove e raffinatezza. Teatro Duse, ore 21, organizzazione Bologna Jazz Festival, Christian McBride. Questa non è una marchetta, ma è, ma è, diciamo, dovere, è ottimo, è doveroso, gusto musicale. Sì, sì, doveroso dire, insomma, quando ci sono queste, queste manifestazioni, questi concerti, che Bologna, insomma, si sa, si presta bene a, a offrire, insomma, sempre grandi, eh sì, eventi, assolutamente, quindi insomma perché non partecipare, visto che è anche un prezzo assolutamente abbordabile, natalizio. Adesso quando arriva poi la puntata dello Special Twice sulla crisi, ah, beh, quella diciamo che rimarrà nel cassetto perché in eterno, in eterno. È il nostro salvagente di rispetto. Sì, sì, la... e a... scusa Elisa, no, no, lo Spending, vai. Review Groove. Sì, sì, sì, esatto. Però insomma ricordiamo che Natale, insomma, porta anche un po' di pigrizia, perché si sa che, insomma, le feste, tanto cibo, la difficoltà da digerire, poche camminate. E allora, sai, ho visto una di quelle tazze che hanno un pulsante e hanno un meccanismo di vortice, dove praticamente tu metti lo zucchero, premi il tasto e la tazza gira se stessa su se stessa, e praticamente, insomma, ti gira il caffè da solo senza che tu devi inserire, no, ah, questa la... è proprio pigrizia, ah, assoluta, addirittura poi anche per lavarla, volendo, giustamente metti un po' d'acqua e sapone, giri, sì, si lava anche da metti sola, metti lo svelto e proprio si lava da sola, esatto, così per i pigri abbiamo fatto anche la marchetta dello svelto. Eh beh, per Natale ci sta, del resto. 12:10 minuti, io volevo fare gli auguri, anzi insieme li vogliamo fare anche al nostro presidente Alfredo Pasquali, con un artista che lui sta particolarmente a cuore, è Ramsey Lewis, Have Yourself a Merry Little Christmas. Auguri! Thank you. queste sono quelle chiusure che chiamano proprio l'applauso a tutti i costi, assolutamente. Bravo e grande Ramsey Lewis che ci tiene compagnia per questo rientro in diretta alle 12:13 con Elisa Iacobucci e William Piana, un antipasto natalizio assolutamente corposo. Molto corposo, e mannaggia che non è uscito il sole in questo venerdì 20 dicembre, però insomma ci è andata sempre bene perché ogni venerdì usciva sempre un piccolo spiraglio, però insomma sono sicura, Willy, che visto che ami come me l'estate, sì. Se fossi nato magari in Australia, dove il Natale appunto lo festeggiano in estate, magari avresti avuto un ricordo un po' più piacevole, saresti stato un po' meno grinch. Infatti in Australia il 25 dicembre corrisponde proprio alle vacanze estive, quindi ovviamente molte feste vengono svolte all'aperto, e l'evento più popolare e importante è il Carol by Candlelight, dove le persone si riuniscono di notte per accendere quelle candele grandi che poi lasciano fluttuare e volare nel cielo cantando appunto canti natalizi, e le stelle ovviamente fanno da spettatrici in questo meraviglioso concerto all'aria aperta. Ma che cosa splendida, pensa cosa deve essere, ma noi lo sappiamo perché in fondo abbiamo fatto la foto di Natale che era luglio. Ah, è vero, esatto, infatti ho mantenuto la manica corta perché vabbè, in questo studio in realtà non c'è mese, non c'è stagione. No, se ci sono io no, ci sono 32 gradi costanti. E poi quindi, insomma, le tue candele aiutano sempre, sì, a mantenere un'atmosfera ottima. Sole artificiale. Sole artificiale. Sole artificiale per quando non c'è. Beh, diciamo che l'abbiamo portato lo stesso con ottima musica allo Special Twice, è arrivato il momento dell'aneddoto. Ah! Aneddoto in questo caso natalizio, che però si sposta verso il 6 gennaio, cioè per la Befana del 1974, con un William tra i 4 e i 5 anni. C'è fermento in casa Piana, c'è assolutamente molta agitazione perché non si sa se sottoporre il William a questa tortura o meno, e se si spaventa il bambino, e se il bambino la prende male, alla fine si decide, faremo la Befana. Nascono due fazioni, chi non la vuole fare e chi la vuole fare. Gli uomini, papà, zio e nonno, assolutamente contrari, deve diventare uomo, deve essere maturo, quindi non deve credere alla Befana. Le donne, nonna, mamma e cognata, invece, completamente in disaccordo con la fazione maschile, decidono di William avrà la sua Befana. Cosa succede? Succede che si cena, si sta insieme, c'è elettricità nell'aria, e improvvisamente, con un trucco degno del miglior Richelieu, mia mamma mi distrae, la nonna scompare momentaneamente per fortuna, si traveste da Befana e ricompare improvvisamente con un sacco di regali. Io non mi spavento per nulla, anzi sono felicissimo, sono il bambino più contento del mondo. Mi giro verso il papà e il nonno urlando, avete visto, la Befana esiste, la Befana esiste, cosa avete da essere tanto malvagi contro la Befana, eccola qui, una simpatica vecchietta esiste. Papà e nonno storditi si guardano l'un l'altro dicendo, no, è completamente scemo questo bambino, non esiste la Befana. E come fa il nonno per portare William alla realtà, intanto tutto preso a recitare poesie e a scartare regali, e chi se ne frega se la Befana esiste o non esiste, sono troppo interessato a tutti i regali che mi sono arrivati. Il nonno sconvolto perché io sono rapito dall'esistenza della Befana, perché credo alla Befana, sacrilegio. Il nonno, per dimostrare che la Befana non esiste, inizia in palpeggiamenti e approcci molto intimi con la nonna Befana, tra lo sconvolgimento generale dei presenti e della nonna stessa. Io disinteressato a tutto ciò, c'è chi ride, c'è chi fa confusione, chi rovescia una bottiglia, e il nonno continua, forse sotto l'effetto del lambrusco, sempre in maniera più insistente a importunare questa moglie Befana. La moglie Befana si stufa, a un certo punto, armata di scopa, si gira di scatto dicendo lascia stare, non rovinare la festa a questo povero bambino, e vattene brutto vecchio, gli spacca la scopa in testa. Nel girarsi alla nonna Befana gli cade il naso finto e William si accorge che la Befana è la nonna. E così i miei 4 anni, i miei 5 anni sono stati, diciamo, improvvisamente, tra virgolette, rovinati da questo, da questa rivelazione. La Befana non è altro che la nonna. L'ho imparato in una maniera un po' esplicita, purtroppo. Beh, insomma, poteva anche essere che aveva delle voglie un po' particolari per questa Befana. Beh, io assolutamente disinteressato, non capivo nemmeno certe realtà, ero molto più attratto dal bellissimo cavalletto con gli acquerelli sui quali potevo dare sfogo alla mia fantasia di piccolo Raffaello, oppure un camion autopompa che trasportava benzina della Shell, me lo ricordo ancora. Insomma, tanti regali che subito invasero la mia fantasia e anche le mie piccole mani. Iniziai a giocare, intanto che la famiglia ovviamente curava il bernoccolo del nonno, la nonna tornava a essere normalmente una nonna, e insomma questa è stata il Natale / Befana più particolare. E ogni 5 minuti un brindisi cordiale. E ogni 5 minuti un brindisi cordiale. Insomma, Elisa, spero di non averti annoiato. Assolutamente no, anzi, sono proprio quegli aneddoti che cercavamo, e anche se, insomma, sono particolari, danno comunque un sorriso nel ricordo, poi crescendo. Assolutamente. E se ne avete anche voi da dirci, da raccontarci, diteceli al 333-180-9494. E intanto l'atmosfera si scalda, e ci siamo, e le campane rintoccano, e allora. Sì. È arrivato Charles Brown che dice: "Please come home for Christmas." Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friend to wish me greetings once again. Sulla voce calda di James Brown rientriamo, ore 12:22, siamo qui ancora con tutto il tiepido calore della sua voce, intanto riecheggiano i ricordi, i Natali passati, e intanto io ricordo che l'albero di Natale era qualcosa che scaturiva sempre un po' di litigi in casa, perché si faceva un po' a gara chi voleva, insomma, dare la propria visione creativa dell'albero. Ovviamente in una casa di giganti non poteva che raggiungere il soffitto e e quindi insomma tutti sulle sedie a dare mano alle luci, alle palline, alla stella, che insomma arrivarci era sempre un'impresa essendo proprio al limite del soffitto. E mi sa che è una cosa che capita spesso, che veniva decorato solo praticamente la parte davanti dell'albero, perché spesso viene messo in un angolo, quindi dietro, dici, dietro non si vede, carichiamo davanti, quindi puntualmente tendeva sempre questa pendenza verso l'esterno, come a salutarti, no? Un inchino all'ingresso di casa. O un pericolo assolutamente. Però sì, mi ricordavo che insomma anche fare il presepe mi divertivo, perché mettevo del mio, prendevo la carta stagnola, facevo lo stagno, il laghetto, ci mettevo la paperella, il cotone faceva la parte di neve, insomma c'era sempre qualche cosa in più. Poi è arrivato il gatto, che spesso ci faceva i suoi pisolini, e io dicevo, mannaggia, io ho speso tanto tempo, arriva il gatto, si mangia un po' di muschio, una pecorella, ma la pecora dove è finita? Beh, e il gatto, burp, che ti è brutto, e quindi incredibilmente, evidentemente, gli piaceva molto il castrato al tuo gatto, come dargli torto del resto. Esatto, assolutamente. Beh, ricordiamo che il presepe deriva dalla narrazione che era San Francesco il primo ad aver riprodotto, insomma, la natività dal vero, per rendere più vicini, insomma, i propri abitanti del paese a quello che era appunto il Natale. Quindi creò proprio il paese vivente e tutti insomma parteciparono, e piacque così tanto l'idea che insomma nacque questa tradizione, arrivata fino ad oggi. A Napoli si sa che è famosissima per le statuette, sì. Ogni anno viene eletto il personaggio dell'anno e viene fatta la statuetta. Chissà che non verrà un Renzi contando Halloween. Sicuramente è in lizza per essere presente nel presepe, ormai un prezzemolino tale indubbiamente potrebbe fare la sua parte. L'importante è non metterlo dietro la mangiatoia. Ah no, chissà che fine fa la mangiatoia. No, soprattutto, non so, è il buon l'asinello. Ah beh, hai capito? Un po' bisogna vedere. Però da calore, quindi. Però da calore, può stare, quindi può aiutare il bambinello. Esatto, visto che insomma il buon l'asinello davano calore, lo possiamo mettere lì in mezzo. E abbiamo fatto anche il presepe, è tutto pronto. Mancano solamente i nostri auguri di William Piana e Elisa Iacobucci di restare sui 103.1 anche durante le feste, perché sicuramente ci sarà modo di tenervi ottima compagnia e ottima qualità musicale. Che sia un Natale pieno di belle sorprese, ma soprattutto che sia un Natale con tanta serenità e tanto tanto relax. La puntata numero 11 di Special Twice Antipasto Natalizio è finita. Vi auguriamo un buonissimo weekend, vi auguriamo una giornata veramente speciale come lo Special Twice, vero Elisa? Assolutamente, tanto speciale, quindi rilassatevi, non pensate a dietro, mangiate, rilassatevi, godetevi la compagnia, e ovviamente vi aspettiamo per il 2014. Eh sì, per gli auguri anche di buon anno. Ciao a tutti da William Piana e Elisa Iacobucci, buon ascolto. Auguri, buon appetito.